amici, c'è qualcuno? Ciao Gianni, e beh. Ciao, mi stai facendo con un innesco. Adesso? No, adesso. Ok. E te cosa era? Gli amici miei di TikTok. Ah. Ah, dice che lo vogliono tu per TikTok, lo sai. Perché ti lo voglio, arrivavo da sai, perché? Per la roba cinese, per la storia della guerra, buh. Perché buh, forse temono che ci siano spie in mezzo, capito? Sicuramente saranno spie, basta mandarle quelle persone che non entrano. Ehi, vabbè, facciamo quello che vuoi. Ma è stato fatto le cose in piazza d'Italia? No, stava piovendo, non lo so se ne hanno fatte pure. C'è tutta la settimana più già messo, porca paletta. Via, se piove non ne fanno, capite? Però lo fanno il primo, no, il primo dell'altro mese, all'emicicle. Fammi sapere già, ma saliamo assieme, non ci dobbiamo morire, dai. Faccio sapere, in bicicletta. Qua piove. Ci metto 2 secondi ad arrivare, capito? Dove credo di dirci? Ma la cosa... come si dice? Ma l'emiciclo mettono poche bancarelle, capito? Invece Piazza d'Italia viene un bel... Gianni! Avanti! Senti, ciao anche da Carrico. Ciao, con chi parlo? Sono Bruno, sono in macchina un po' distante dal sasso, volevo solo sapere che non mi sentivi, la radio così. Già ti sento, Bruno, aspetta, prova a vedere. Ok, sono in macchina, con un attimino e... Santiago, 6:30, la radio è 3, dai. Adesso meglio mi senti? Adesso proprio. Sto ascoltando, c'ho un microfono che ho mangiato, ma non serve. Insomma, è più o meno uguale, dai. Più o meno è uguale, Bruno, non è che è cambiato molto, dai. Io l'ho preso un amplificato, non ve l'ho rinnovato ed è una bomba, era in offerta della Midland e l'ho preso. Ma cosa, questo qua me l'ha venduto un amico dalla frequenza, me l'ha piazzato, ma non è mai riuscito a farlo funzionare, guarda, se te la sollevo lo fa casino, guarda, adesso così mi hanno detto che quando lo sollevo fa solo casino. E innesca se lo sollevi. E vabbè, magari lo trovi qualche microfono che si adatta lì. Dove sarà? Da Porto Torre? No, sto salendo. Adesso l'accendo, dico la gente, non si vede che sta attesa. Continuate che vi ascolto, dai. Kappa. Va bene Bruno, dai, riprendi un po'. Non so se lui ascolta, ma non lo sento già. Lo senti? Ah, io lo sento molto bene, chiaro. Adesso sì, ciao Bruno. Ciao, sono in bagno, non so magari non avrei aspetto di perché ho fatto un tentativo e poi non so mai riuscire a farlo uno, perché ho cambiato dalla fine della macchina. Ho solo una storia e sto usando la macchina di un dove sei Bruno? Ah ok. Un po' basso io ti ascolto, non so se mi ascolti bene. Io già ti dicevo un po' basso. Io sono anche agganciato, eh. Ah, tu vai benissimo, la radio è forte, un Santiago molto bello. La radio è molto chiara, molto limpida, bella. Ok. Perché c'ho poco il correre sotto. Cosa riesco a tirarti fuori, dai? L'antenna in questione è stata fatta rimessa a posto come Dio comanda, grazie a Fabrizio. Veramente, guarda, ha fatto un capolavoro. Va bene, avanti già. E a me Bruno, come mi ascolti? Come? Come mi ascolti a me, ho detto. Adesso finalmente ti ascolto un po' bene, perché quando sono su da casa arrivi troppo forte. E bene, adesso mi ascolti basso. Io ti sento bene adesso, quando siamo su, che siamo vicini. Troppo forte, perché c'è la sola parola. Tu vieni nel nostro canale e basta, è a posto. Avanti, Luca. Eia. Ma ascolto basso, dai, però io lo ascolto. Mi stavo contando un po' di monete, cioè un 30 euro di monete da un centesimo. Ma da un centesimo, da 10 centesimi, 20 centesimi e 50, devo dare un circo. Quasi 30 euro sono. E più ne ho quasi 500 da 2 da 1. Io le ho cambiate quando avanti. Ma tanto non mi servono adesso. Se continuo così, la domanda è già un tatuaggio. Però devo mettere lo salvadanaro. Un po' grande dice quando sono a Natale sono ve lo carico, eh. E non so nemmeno quanto ci sarà. Ma non lo dire, c'è da venire a casa e viene di burani. No, non c'è più mamma, no, è possibile va bene a casa, è possibile. Mamma, tu sei qua, uomo, me. Parlai con uno, eh? Lo gatto. Vai, qua, uomo, me. Ciao, Natale. Ciao, già. Mica c'è anche Bruno. Non lo sento a Bruno, però. Ho capito. Natalia, senti, ti ho detto che ti senti abbastanza bene. E sono io che non sento a lui. Ma dov'è? Sta facendo la zona per andare a Plattamolla da Porto Torres. Ah, cappa. Vabbè, io la già ascolto lo stesso, io la ascolto. E con l'antenna va, Santiago 7 lo ascolto, 6:30, 7. Ma io c'ho QLM oggi. Bruno, dove sei adesso? E adesso sei con USB da 5 a 7. Prego, buonasera. Avanti, buonasera a te, Gambino, avanti. Buonasera Gianni, buonasera Luca, buonasera Bruno. Ciao Gambino. No. Bruno, buonasera. Ciao, ti sento bene, sono bene perché sei. È positivo. Joker. Località Nord Sardegna. Perché l'amplificatore in gola, Gavino? Cosa Gianni? Ho detto che c'è l'amplificatore in gola. Positivo. Già il microfono sbagliato, una voce molto. Cosa, scusa? Ah, non è metallo, cazzo, è bella corposa. Già, lui mi sta, ce l'ho, ora ti posso dire, a 6 km, 5 km ce l'ho lì in aria. Forse adesso anche lo prendo lo spizzer. No, sono tornato, Ciao Gavino. Ciao Luca, buonasera. Riprendi Bruno. Adesso è via in quella zona lì, sì. Se vuoi la turbo con la grande, da 2 metri la sto vendendo. Cosa ne vuoi? Ma giudica che guarda, l'altro giorno mi hanno rovinato la capota della macchina. Sono entrato in garage, non mi ricordavo che c'era l'antenna su. Si è capotata l'antenna e mi ha raschiato la capota, la sta a Napoli. Figurati se la roba ancora più lunga. E anche a me è successo, però nella strada di Alghero ne stavo perdendo l'antenna, meno male che avevo messo tutto il cavo dentro, c'era poco filo e è riuscita a non colpire le altre macchine, capito? È rimasta sulla macchina mia, mi ha graffiato la capota e ha fatto due macchiature. No, io stavo entrando in garage, avevo già aperto un garage per andare dentro, di solito l'abbasso l'antenna, capito? L'abbasso, la cassa da non l'ho sono piccato, entro dentro e ho sentito che la schiava sulla serranda. Guardate la capota, la capota l'ha graffiato, la sta a Napoli. Vabbè, Bruno, cosa vuoi fare? Sono cose che succedono. A me una volta mi è successo nei parcheggi di Multireddu, quello che c'è al centro commerciale Luna e Sole lì. Sono sceso giù con l'antenna attaccata, se te ricordo, ho detto tra, mamma mia l'antenna, porca miseria, mi sono dovuto fermare con le macchine dietro, un casino. Non parliamo dei parcheggi, perché con il mio amico un giorno in campo siamo entrati in città mercato. E ha toccato la capo. Toccato. Domani facciamo un pedaggio di metà in mano. No, non ci credo. E quando mai non c'ha l'occhio? Guidando il camper uno deve avere anche l'occhio. Io ho guidato per tanti anni furgoni alti, camion, eccetera. Però l'occhio ce l'avevo, sapevo dove passare o no. E quando sei distratto, guidato, non si spiega, non il camper, pensavo, magari che con la macchina. Lasciamo perdere. Guarda se... Oh, aspetta già, Natalino, mi senti? Niente, l'ho perduto. E gli ha fatto danno, Bru? Ah, Bru, un bel danno gli ha fatto. Lo stavo scoperchiando. Sì. Cazzo, che frutta. vabbè. A me mi è successo una volta a Porto Torres, sono andato con le... con con il furgone, quello alto, a scaricare alla discarica, a scaricare il cartone, e quello della discarica mi ha fatto spostare, se era in un punto mi ha fatto spostare in un altro, dove c'era il camion, il pesce cane, che nel momento ho alzato il pesce cane per scaricare, quindi non mi sono accorto perché era più alto della capota, non vedevo nulla, e ho toccato la capota e l'ho rotta, me l'ha fatta pagare principale, mi ha fatto mettere i soldi in tasca e pagare 2000 euro di capo. Gianni, doppio rum, cambio, attento, Gianni, doppio rum, cambio. Un attimo, fra. Lo so, mi ha detto, vedi, ti levano in tasca e fallo aggiustare. L'ho portato a Ursi perché tra passo mi aveva chiesto 7.000 euro. Cazzo, sgavi, 7.000 euro per fare la capota di sopra, di dietro, là. 7.000. Invece a Ursi con 2.000 euro me lo cava. Attenzione, canale 10, cambio, canale 10, cambio. Avanti, aiuto, avanti. Calmo, buonasera. Ciao, Eugenio. Cambio, Eugenio, siamo belli di marci. Buonasera, e allora, che si dice? Amico mio di Porto Torres, ma Sassari sì. L'amico di Sassari, sono a Sassari qua, sto transitando per tornarmi a casa. Ciao, ci saluto anche a te. Compagnia di Natalino, ora si trova da qua, tu è Natalino, c'è anche Gavino a Porto Torres, sono anche che ti sente. Avanti Natalino. Ciao Eugenio. Ciao Natalino, buonasera, mi sentito? Dove sei oggi? Adesso sono all'altezza proprio di fronte di Città Mercato, vai. A Osciano, come ci diciamo? Ho capito, Non è né Osciano né Città Mercato, adesso è Conad. No, le porte di Sassari. Come tu? Si chiamano le porte di Sassari. Esatto. È della Conad adesso. Si chiama, uno di zie, oggi di Conad, esatto, Al Conac. Conac. E oggi a te non ti è mai successo entrare nei parcheggi sotterranei col camper? Farmi con i bruci, ho dimenticato che nel camper era la padubù. Ma Gabino non mi ascolta? Oh, Gabi! Sì, avanti, buonasera, Ruggero, per sentire. Mi sta rispondendomi, Ruggero, sì. Senza il QRM, vai! Buonasera, se mi senti. E lui già ti sente, ti ha risposto, Ruggero. Ah, mi ha risposto, allora faccio il QRM l'ha sorpassato, dai, però già mi sto avvicinando, ma tra un po' lo sento meglio. Prova a vedere, Gabi, a vedere se ti ascolti. Eugenio, buonasera. Controllo di Sant'Ena, c'è stazionaria. Ciao Gabi, buonasera anche a te, vai, buonasera. Ciao Eugenio, buonasera, dove vedi, bello? Guarda, questa cosa funziona bene, se mi ascolti anche tu sono a cavallo, vai. Ok. C'è Bruno in posteggio, avanti Bruno, dove sei arrivato? Sono alle punti adesso, capito? Diciamo a 5-6 km. L'amico lo sento un po' basso. Dipende. Adesso sei chiaro. Mi copri lì. Le 7 sono ravvolati. Posso? Ho detto adesso esci bene. Vabbè, ancora sono 5-6 km da Sassari. Adesso è buono, sia il segnale che la. Ma la mia, dici a me? No, a Bruno sto dicendo. Io adesso mi trovo ancora 5-6 km da Sassari già. Ho superato adesso l'Arena del Sole e sono vicino al Rio Gavaru. E via anche zona dopo, sta arrivando a 9:20 Radio 5. Con questo ho intendito? Sì. Radio, adesso ho messo questo preamplificato a minimo, perché ho visto che a minimo funziona, se lo tiro su fa casino. L'amico di Porto Torres è molto basso invece. Eugenio? Boh, non lo so. Eugenio? Dimmi già. Prova a vedere se senti a Bruno. A Bruno Uragano che sta transitando la Budi verso l'Arena del Sole. Bruno Uragano, esci da fuori. Ti sento, arrivi bene, Santiago 7, la radio 4, ti sento molto bene. L'ho sentito per poco, già, ma dire se se trasporti uno sarda. Cosa? Dile se Bruno trasporti uno sarda. No, negativo, lui è Bruno Pensione. Grazie, grazie, già sei un amico, così mi ricordi che sono rincoglionito. È uno sarda, cazzo, trasporti autotreni, facevi. No, ma ti posso assicurare che ho passato tutta la vita dentro gli autotreni. Vabbè, quello già lo so. Se c'era qualche autotreno in giro, sta tranquillo che mi è capitato tra le mani. Vabbè, prima o poi sì. Vabbè. Va bene, ok. Chi c'è? Vediamo se è rientrato Natalino. Natalino, mi senti? Bruno, adesso che è, ti c'è Bruno, bene. Gavino! Sì, Roger, ma chi vi ha chiamato? Un attimino, voglio sentire se mi siete Gavino adesso. Gavino! Sì, Eugenio, avanti. Ti chiedo ti ascolto basso, però se adesso sono riuscito a tirarti fuori, dimmi. Io sono a San Giovanni, ma riesco a sentirti un poco. Non so se mi ascolti tu. Capite, sentite. No, adesso me l'ho copiato già. Ha detto che è a San Giovanni che riesce a sentirti poco. Ha detto, non so se riesci a sentirmi tu, ma quanto pare tu non lo senti. No, no, non lo sento, non lo sento. Non lo sento già, ripeti. C'è Natalino in parcheggio, Natalino, avanti, avanti. Ah, già sentate se Natalino, fuggi due. Va bene, là. E comunque tutti quanti in girella, siete tranne io che sono a casa, là. Mi sono fatto una bella doccia, c'ho ancora i capelli bagnati. Di uscire non ne avevo voglia perché il tempo, sarei andato stamattina in Piazza d'Italia che c'era le bancarelle con la roba antica eccetera eccetera, però stava piovendo quindi non ne hanno fatto sicuramente. Oh già, no, io vado sempre, seguo sempre le bancarelle, ho degli amici e acquisto ancora le cose, sai che sono un raccoglitore di cose, di oggetti strani io, di banconote, di tutto, roba antica. Ma oggi non sono potuto andare perché ho visto che stava piovendo, non credo che l'abbiano fatta, no? Ma non lo so, ma penso di no, quando piove non ne fanno proprio. Però poi c'è all'emiciclo, non mi ricordo se è il primo del mese. No, ma all'emiciclo però fanno il mercatino. Oh, fanno anche quello, fanno anche quello lì, bro. Ma io vado spesso perché acquisto macchine e auto d'epoca, roba così, capito? Che c'ho un garage dove c'è un'esposizione di automobiline di quell'epoca, però roba, e poi roba antica, mi piacciono le monete, le banconote, c'è un sacco di roba di banconote, e, sai, le fanno 10.000, 5.000, quelle grandi, e sto sempre frugando tra i mercantili. Se ci sono cose che interessano anche io compro qualcosa. E ho una macchina da scrivere Olivetti di quelle antiche, le la devo portare a vedere se la vogliono. Olivetti ne avevo, le ho regalato una decina, perché quando si cambiavano tutte le macchine, che non sono arrivati computer e cose, stampanti nuove, quelle finivano al macero e allora di quelle 98, di quelle 1, ne abbiamo bruciato poche. Sì, vabbè, io c'avevo quella casericcia, quella piccola dell'Olivetti, ce l'ho tuttora, però c'è un lampada in chivi, c'è ancora il nastro, tutto qua. E quella è, se è la 32 è bella, quella è molto ricercata, quella piccolina che si usava una volta, e quella era portatile. Sì, la 32. E quella è l'unica ricercata, perché quella diciamo che ha fatto la sua epoca, quella che non c'era aveva, e chiunque scriveva, giornalisti o chiunque aveva un ufficio, una cosa, usava la lettera 32 per il trasporto che era portata, poi si usava anche l'ufficio. Quelle sono quelle che nei mercatini vanno via subito quando ci sono. Quanto sono quotate quelle di gruppo più o meno? Ma quelle va, diciamo che dipende sempre da come sono messe, se funzionano bene, però siccome ancora se ne trovano di quelle, la puoi trovare a 20-30 euro, anche 50 euro, ma di solito quando la pari 50 euro perché mi è mal messo, ha capito? Ho capito, dai. Avanti Gabi, non la do per 50 euro, non la do, non mi conviene. Vabbè Gabi, non si è sentato. A chi tocca? Eugenio, riprendi tu. Avanti Luca, Luca ci ha sentato, Natalino ci sei, Gavino riprendi il studio, ti cate analisi. E io devo andare in garage, devo fare sistemare una cosa per domani già. E sono entrato, mi riprendo tra con una smussatina, con la mole e poi saldi. Avanti. Adesso siamo scelti, sì. Ciao G, sì. Sì, segnale 8, radio 3. Ma cosa c'hai? Che antenna c'hai la camper, G? Però secondo me oggi c'è qualcosa quell'antenna, ha qualcosa, perché quando eri, diciamo, di lì alle porte di Sassari, da me qua, anche se hai la radio, anche se sei solo di radio, devi arrivare almeno di radio, devi arrivare bene. E calibrati con l'antenna, Eugenio. Mi aspetto un attimo che metto la macchina in garage e poi entro da casa. Capo, dai, Bruno si sta sentendo, sta mettendo la macchina in garage e poi tu che rientra da casa. E Gabi, vai tranquillo, non c'è problema, se devi fare qualcosa vai tranquillo. Ma Gianni, ecco, stavo parlando con Eugenio. Eugenio, ci sei ancora? Eugenio? Eugenio, senti a Gabino. Eugenio? Ti sta chiamando Gabino, lo senti? Capito, Eugenio. L'antenna vuole calibrata, ho fatto qualcosa perché c'era anche un amico mio sul camper quella lì, e per esempio l'altro giorno era vicino a Valle d'Oria, io lo copiavo benissimo, non stava rientrato. Pensa tu, mi sei messo al QRM7, penso che mi ha messo quell'antenna, amico. Aspetta, e oggi ha detto Gavino che devi tarartela quell'antenna, perché un suo amico da Valle d'Oria lo sentiva e sentiva, e Gavino sentiva a lui che vanno bene quelle antenne, ma vogliono tarate bene. Gabi, senti, ti ha detto che già va bene, che per quello che serve a lui il camper va bene, Sì, ho capito, va bene, però, caspita, io, a me, questo amico che c'è il camper ce l'ha uguale a quella che sta dicendo lui. Di segnale mi arrivava un segnale basso, però la radio era comprensibile, soprattutto erano le 15 di pomeriggio, avevo un po' di QRM, ma la radio era comprensibile, ed era, diciamo, nella salita che c'è dopo Valle d'Oria, prima di entrare nelle gallerie, cioè dopo uscito dalle gallerie lo copiavo, ma l'ho accompagnato fino a Porto Torres. E non è che sì, vanno bene, però bisogna anche tararle, perché è possibile che non mi accoppiava a me di lì, adesso che è quasi arrivata a casa sua, è impossibile. Va bene, riprendo dopo già. Io l'altro giorno con quell'antenna nuova dall'incrocio della morte sono arrivato a Santiago Nove, a Sassi. Ma stai scherzando, per forza ti deve arrivare una diciamo una base fissa, una mobile deve arrivare lì, almeno una distanza di 25-30 km dovevi copiare per forza, in qualsiasi punto sia uno. Con un'antenna logicamente verticale come si deve. Comunque, riprendo dopo. Sì, ho capito, va bene. Avanti, chi è rimasto? Vediamo un pochettino se è rientrato Bruno. Bruno, ci sei? Bruno ancora non ha attaccato a casa, dai. Sta mettendo la macchina in garage. Chi è rimasto? Luca, ci sei? Natalino? Non posso parlare già, mi sta mancando la voce. Allora. A me ieri così era, poi non mi hanno riconosciuto perché avevo la voce rocca così. E mai a furia di cantare che si fa così. Quando canto molto qui mi manca la voce. Solo perché è rimasto Eugenio. Non è rimasto nessuno. Ehi, Bruno, dimmi, sono rimasto solo, se ne sono tutti andati. Infatti stavo ascoltando, forse c'è qualcuno che parla sul fondo, non lo sento. Questo apparecchio è molto chiaro, va bene. Che apparecchio è? E questo è quello che stavo usando in macchina poco fa. Stavo con l'antenna con la boomerang da balcone. È chiara la radio così. Però in macchina è troppo bassa. In macchina è troppo bassa. Dovresti prenderti un microfono. Quello della Midland che va è una bomba. Va benissimo, l'ho preso io perché era in offerta, c'era 70% l'offerta, l'ho pagato su 9,90 euro, roba del genere, e più le spese di spedizione, che ce l'abbiamo divisa in due perché l'abbiamo ordinato due, quindi mi è venuta una gazzata, nemmeno 15 euro. Beh, funziona. Funziona, se te lo faccio sentire, tra sussi, ma funziona però. Questo è venduto un amico, capito? Non ha venduto un amico. E ci è venuto 30 euro perché tu me l'ha piazzato, ma probabilmente non è compatibile con questa apparecchio, perché quando lo tiro su innesca. Purtroppo il problema è anche che le fa le cose, perché ripeto, io adesso non esatto facendo tutti i lavori, questi giorni mi sono trovato perché mi sono comprato gli occhiali con le lenti particolari per vedere proprio sempre le piccoline, no? Perché se le volete lo faccio anche in garage, così vado un po' lo piatto sull'altro apparecchio, poi non posso andare su, sul gioia, va bene. Aspetta, adesso te lo faccio sentire, lo metto, lo piatto e te lo faccio sentire come va. Questo è un M93 della ZG. E dovrebbe andare bene. Ho fatto testato male oppure non è compatibile con questo apparecchio, per cui adesso io lo apro, controllo, mi faccio tutti i contatti, i collegamenti, mi faccio bene, me lo dico io. Dopodiché se c'è ancora innesca, a quel punto passo nell'altro apparecchio per vedere come va. E se no mi devo comprare per il mezzo. Bruno! Sì. Questo è il microfono, c'è anche l'ecco, guarda, lo muovo, attenzione Bruno, cambio. Funziona, ma rispetto a quello che stavo vedendo prima è un po' più nasale, più si sente la voce un po' più cupa, cazzo, funziona bene, forte, però più basso dell'altro, dai. Questo qua lo devi tenere lontano, perché ce l'avevo troppo vicino forse, guarda così. Oh, no, già va bene, questo qui l'ho pagato, 1,90 più la spesa di spedizione, mi è venuto un 13 euro, 14 euro, dai. Sì, vai sul sito della Midland, pagina 2, e c'è questo microfono, si chiama F100, Midland F100. Devo dare un'occhiata, tanto per la centrale del corpo. C'è provo, perché ripeto, sono due apparecchi, uno per la macchina, uno per casa, questo è il microfono, sempre tenerlo abbassato così a zero, non me ne faccio niente, non so male, ma c'è il microfono originale. Poi niente, per l'altro apparecchio, è quello che usa la macchina, devo assolutamente mettere il microfono migliore, perché la macchina mi sento sempre più basso, capito? Secondo le ragioni non mi sento. Stasera, quando la Placca Moro, la Protocollo, si era un pochino, no, l'orario era molto basso, capito? Io guarda, in macchina c'ho il microfono normale dell'apparecchio, solo che c'è l'up down, l'apparecchio, li metti l'up down che è come un processore, capito? Ma io stavo pensando in macchina invece, per dare a fare la più potenza, di mettere una volta c'erano più lineari piccolini, anche da 100 watt, non so se c'erano più lineari piccolini da radiano che si usavano per dare a fare la più potenza, capito? Perché quando sei in macchina magari in alcune zone non si sente. È come se ci sono, certo che ci sono. E uno di quelli lì, perché così almeno un pochettino entra. Questa è, va bene l'antenna, perché sarà un metro alta, non è alta. È leggera, va bene. E comunque ne ho perso, di questa antenna che l'ho mettata, ne ho perso, hai visto sotto l'antenna, che ha una fare in gomma, c'è un cerchietto in gomma per non graffiare la mano. Ne ho perso quello lì. Adesso io gliel'ho fatto di un tessuto, gliel'ho rifatto di pelle, però non aderisce bene come la gomma, devo trovare un pezzo di gomma piatta, sottile, e rifarle tutto quanto la parte, il perimetro dell'antenna, perché ho paura che possa graffiare e spostarsi, perché adesso non attacca bene come quando si attaccava bene che c'era la gomma. Bruno, su internet li vengono, costano 4,90 euro, una cosa del genere, li vendo. Magari, perché già ho gettato la macchina entro nel garage, se scappa, perché questo si sposta, io sono già fatto, gli ho messo un pezzo di quella finta a pelle, o di pelle. Sì, rimane attaccata la macchina, non mi interessava già produttore, di stasera non si è spostata niente. Però non è come la gomma, capito, la gomma non. Questo magari se si muove può rovinare la carrozzeria. Che è comoda questa antenna perché non fai a bucare, una volta spaccella, sbucava la macchina, qui la rigidiva mi fa male. Adesso devo soltanto, sì, voglio entrare, ma su cosa è? Su qualche marca di antenne, su queste qualche cosa per provare, per provare cosa? Cambi per questa antenna, ad esempio questo platorello di gomma che si mette sotto l'antenna, visibile, nella fesseria, ma non riesco a trovare un pezzo di gomma per rifarlo. Io li ho visti proprio l'altro giorno, non mi ricordo dove era, però per caso mi è capitato che li ho visti, c'erano di diverse misure, costavano sui 4,90 euro, non costano manco molto, capito? Io gliel'ho fatto all'antenna mia, l'avevo persa anche io, la volta che mi è caduta la, l'antenna dalla, dal tempio della macchina, che era una sala di alghero, non potevo manco fermare, per cui ho dovuto continuare perché avevo macchine dietro, gliel'ho rifatto, sai come, c'avevo, visto quella pelle che si usa per asciugare la macchina, quella nera, gliel'ho ritagliata, gliel'ho incollata con quella colla da falegname alla, alla calamita e attacca bene, attacca proprio bene. Poi il bordo gliel'ho fatto con quel nastro, con l'astro vulcanizzante, gli ho fatto tutto il bordo giro in giro attorno per chiuderlo, per chiuderlo bene, dai, diciamo, per non vedersi nulla. Sì, ma vabbè, adesso gli ho stonato qui la bella vela, anche io ho fatto il tarocco. Diciamo che un pezzo di gomma sottile arriva proprio, si attaccava a tutto, non faceva spostare neanche di mezzo centimetro un pezzo, però era proprio una cosa molto più sicura. Oh, vabbè, che ho dato un colpetto stasera di accelerata di macchina, tutto per poter vedere se si spostava, ma non sono andato più di 100-120, quindi ho avuto un'antenna rimasta ferma, quella bloccata. Però è sempre un materiale che può graffiare, perché non è come la gomma. Adesso io poi controllo il computer, accendo e do un'occhiata. Fa una fesseria, anche perché così quegli uomo sono tutti due amici CB a casa, hanno visto l'antenna, tutti gatti qua, e lo sai come hanno, perché veramente si fa questo pezzo di pelle intorno alla calamita, si può fare un modo violento così, tanto per riuscire. No, mi ha fatto bene, mi sono appintato, mi sono appintato bene, e addirittura ho riverniciato tutta la base qua che me l'aveva graffiata. La macchina non ho potuto fare niente perché mi ha fatto due ammaccaturine piccolissime, però me le ha fatte dietro come è scesa la calamita, e in più mi ha fatto tutta la strisciata dalla capota fino a dove scende. Questa macchina me l'hanno destinata, ho fatto la fiancata perché a Cittamercato con un carrello mi hanno graffiato tutta la fiancata, vabbè, tutta la fiancata ho fatto paraurti perché si sono appoggiati, ho fatto più un parafango davanti e vabbè, cazzo, là devo fare la capota, alla fine questa macchina è tutta macchata, perché tu i metallizzati tu lo sai che perfetto perfetto non ti viene mai, tanto è vero che la paraurti gli ho fatto dietro e sì, è fatto bene, però io lo vedo che c'è stata una differenza di colore, anche se loro dicono che il colore è quello, però io lo vedo che è diverso. Dipende anche da chi la porti, se la porti da verniciatori che sanno verniciare bene, il colore te lo fanno perfetto perché te lo fanno col tintometro, tipo farina, vai da farina lì e c'hanno il tintometro, te lo fanno loro il colore. Ah, per questo già c'è un'azienda abbastanza, come penso poi ti conosco da tutta la vita, sono amici anche d'infanzia. Tanto è vero, hanno fatto la fiancata, non si vedeva niente, hanno fatto anche il parafango anteriore, che io sfido chiunque a dire che qua stanno verniciando, perché lavorano bene, ma molto bene. Però questa volta ti dico la verità, il paraurti è dietro, io l'ho fatto vedere anche altre persone, così no, per evitare che fossi io a notare, e mi ha detto un colore un po' differente, se vogliamo rompere le palle. Adesso dovrò, quando faccio verniciare la capota, sicuramente devo farlo rifare nuovamente paraurti dietro, perché la macchina la sto tenendo un po' così, perché l'ho portata a dover versarla, non me l'hanno valutata come vi tenevo io, me la dovevano prendere con 4 citi, allora ho detto, me la sistemo, me la tengo un altro paio d'anni e la butto là, però a versarla per 2 lire mi manco tanto danno. Ah beh, se va bene, cosa di naffitti versarla, non sono tempi noi, diciamo, a macchina, tu, no, io l'ho cambiata, perché viaggiavo, tu lo sai benissimo, poi purtroppo non ho potuto più, non sono potuto più andare al lavoro, quindi sono andato in pensione e la macchina mi è rimasta. Se l'avrei preso la macchinetta non l'avrei presa quella. Vabbè, quando viaggiavo io per 30 anni, 35 anni ho viaggiato, facevo tutto il Sassa, Italia e lui, io ho lavorato dappertutto, sai, il lavoro che facevo io, ho viaggiato tanto, allora avevo macchine importanti, macchine anche veloci, macchine, ho cambiato anche alcuni motori perché, ripeto, fare 100.000 km ci mettevo poco io, pochi anni e ho cambiato la motore, e ho avuto anche macchine belle. Questa è una macchina appunto barbissonante, tanto non sto più viaggiando e ti dirò, e sono andato a Cagliari con questa macchina anche tirando, silenziosissima, sembra ferma, rispetto alle piazze sembra una macchina ferma, perché io faccio 10 diari e non ho consumato niente, come ho chiuso il bacino di benzina, sono andato e tornato. Questa è una macchina è perfetta, ma poi perché facevo una carico prima, dunque me lo sempre tenuto a conto, li faccio io i tagliandi, li controllo tutto. L'altro giorno ho comprato il materiale, l'ho fatto la messa a punto, diciamo che la macchina è sempre sotto controllo, cambio l'olio molto più spesso di quanto dice la fabbrica, per cui diciamo il motore è perfetto, la macchina non va un graffio, però cazzo tu quando vai a versarle tu ti devi fare un culo. E allora gli ho detto dai una cosa, prendi la macchina nuova, adesso continuo a camminare con questa, poi quando mi hanno deciso di tutto l'altro allora cambierò. Quanti anni c'ha la macchina tua, Bruno? Ma dovrebbe avere 7 anni, forse sarà ogni a 10. Ma il problema sai cos'è? Che se tu mi dai a me una cifra accettabile, perché anche le altre macchine, questa l'ho cercato io perché compro da loro, potevano dire, vabbè, grazie, è un cliente, li conoscono tutti ormai perché tutti i materiali li compro lì, perché se vanno le macchine, io macchina, la tengo, tu mi dai la macchina a 7 anni, la macchina perfetta, più bella di quando è uscita, perché come la tengo io, adesso si apprende a raggio, a pulire, a fare, e, insomma, quelle cose che... Hai fatto il meccanico che ha corso, si è fatto la perdita, una cosa. Mi diverto io sulla macchina. E tu loro l'hanno vista la macchina nuova. Loro me la vorrebbero venuta, nel senso, 2000 euro e magari a me mi volevano dare per fare da 2000 e qualcosa. Me la vendono privato, cazzo. E allora, do un buon anticipo, se no la macchina non esce lì. La volevo lasciare la mia moglie, che lei ha 600, 15 anni, e che è la mia, ti ho detto, io mi compro la macchina, la nuova, posso comprare una Golf, perché ho avuto la Golf, ce l'ho avuta a 13 anni. Non le vuole sentire, allora, quando l'ho abbandonata la sto usando io. Vabbè, la Golf, i motori tedeschi sono... sono treni, sono. Sì, ho avuto le Opel, l'ultima che ho versato aveva 350.000 km, me la volevano demolire, ma non dare rottamazione, dovevo mettere i soldi io per rottamarla, 150 euro, e ho preferito darla a un amico, 200 euro, ci ha fatto il passaggio in frequente, l'ho data a lui, poi lui se l'ha venduta un altro se l'ha venduta un altro ancora, sta sempre girando. Ma è così, perché l'ho avuto io, della Opel l'ho avuto da un'altra Station Wagon, quella era un trattore, era forte, guarda, più spazioso, non l'ho usata quando andavo al mare, facevo i campeggi, la caricavo, e poi lui, sono stato appassionato, stasera erano 10, 30, la mattina era ancora meno, che c'è anche con lui ancora, poi l'avevo venduta, quella l'avevo venduta prima con la Golf, l'avevo avuto 3 o 4 Fiat, l'ho avuto la Suzuki, ma ho avuto di tutto, adesso io, ma allora viaggiavo già, la macchina si pagava da sola, sempre macchine nuove, via. Io guarda, 13 anni l'ho avuta, ma 13 macchine ho avuto viaggiando Sassari Porto Torres, facevo 80 km al giorno come minimo, perché facevo, andavo, ritornavo, poi andavo a mangiare, ritornavo di nuovo e risalivo. Erano 80 km al giorno che facevo il minimo, poi la usavo anche per il resto, per tutto quanto, andare in giro, fare. L'ultima che ho versato era 350.000 km, ne ho avuto due di Astra Station Vero io, la penultima e l'ultima ho avuto, poi l'ho versata e ho preso questa qua, però era un bel bella che la Fiat Punto che avevo, la Punto 16 valvole, 45, la Punto 45 16 valvole, era molto bella, quella c'era una bella coppia, camminava e consumava poco. Punto ne ha avuto due punto, la prima della punto avevo una 1, avevo fatto una 1 che era 1100 e sotto avevo messo il motore da 1007, avevo messo il motore della regata, con il motore della regata la punto, la 1 io penso di aver fatto un più 85.000 km. Era talmente veloce, perché essendo una macchina molto leggera, la 1 era leggera, il motore 1007, ma sai quando andavo a tempio, quella zona là, perché ho viaggiato molto per lavoro, io facevo tutte le piatte, o a tempio, la mamma lei, andavo a duro, andavo a casa, dappertutto, tutte le settimane, ho sempre in giro. Quando andavo a Milano, quando andavo a tempio, che prendevo una famosa, io non sapevo andare. Io non ho levato neanche se le curve non erano due, ma accelerava e strisciava, perché era leggero, e tutte le macchine che ho avuto cambiavano sempre di più, la mia Golf era 1300, aveva motore sotto del GT, io non ho avuto mai una macchina, ho avuto 3, 4, 500, tutte con motore potenziato, perché quando esci dall'officina sei un po' maniaco dei motori, no? E così ho sempre avuto motori elaborati, diciamo così. E passavano alla revisione. E la revisione ha avuto qualche problema comunque. Ma allora si faceva alla Cetri, aspetta un attimo che c'è il cane che sta mariando, vedere che cavolo vuole. Via. Allora, quando suona qualcuno, quando viene qualcuno a casa, quel cane se lo vuole sbranare. Il mio è il bombolaio, non può vedere. Però sta mugugnando sempre tutto il giorno così, perché c'ho due cani in calore, sta sempre piangendo. Miro, senti qua. E allora si è gagliato, anche devo far sentire a te si è gagliato. Stava mugugnando sino adesso. Io ho avuto la 1 Fire e consumava pochissimo, mi dimenticavo di mettere benzina, bellissima, nuova l'avevo comprata. La 1 io l'avevo comprata per usarla in città. Allora, quando il motore è andato male, mi ha fatto un motore sotto, il motore della ragazza, stava in missione 1007. C'era proprio talmente gusto a girare ancora avanti. Che ci ho viaggiato, non so, ma tanto divertito, perché non è che era molto leggera, magari ero andato al semaforo, cosa ne so, con un altro a fianco che aveva la macchina di un'altra cilindrata e non vedeva questa ripresa che usciva il fumo dalle ruote e guardava un po' come se dire, ma lì cosa l'ha fatta questa macchina. E così io sono preso dall'alto da corsa, ho fatto anche delle gare da Ferrato, per cui diciamo che da ragazzo non ho mai avuto una macchina con molto di utile, ma a parte il fatto che io ma le altre mai, che fossero morte, che fossero mai, non c'era niente là. Io ho un garage, stavo tutta la prefattura e mi passavo il tempo là. Ah beh, se c'è la passione è quella la ragione. No, io guarda, la prima macchina che ho avuto è 595 Giannini, da 500 Giannini col manubrietto, tutta diversa dentro, con contagiri, c'aveva tutta la, i contachilometri diversi, c'era contagiri, c'era contachilometri, tutti quanti a parte. Ed era una macchina che faceva 9 al litro, però nella salita di Marini mi ha fatto 130, non ti dico 9 al litro però faceva. Delinquente. Ah? Beh, la voce è tornata. No, mi avviso, non riesco a parlare, dai, non posso parlare. Ciao Bruno. Miele non ne ha. La sento la prima, non già, si deve fuori. È arrivata gente, vado sul tuo camion, stava bagliando perché è arrivata gente. Sentiamo un altro momento, dopo tutti ci sentiamo. Ciao, ciao, bravo, bravo. Natalia, miele non ne hai? Sì, l'ho preso. Con latte caldo però. Sì, adesso devo cenare, dopo me lo faccio un po' di latte caldo con miele. Più tardi. Vabbè Bruno, dai, buono quel rettino. Avanti, per i saluti. Ciao, ciao Bruno, buon tutto, alle prossime. Cava. Mi ha attaccato questo microfono per farglielo sentire a Bruno, che è quello che ho preso, 9,90 della Mila. Sì, già lo so. Male va. Quanto che va male, va benissimo. Prima costava un bel po' di soldi, c'era il 70% di sconto. Infatti l'ho detto anche a Franca, che ve lo prendevate. No, io non ho messo nulla. Vabbè, comunque andai, io me l'ho preso insieme a Franco della stazione e me l'ho preso insieme a lui, ne abbiamo preso due, quindi ci è venuto diviso anche le spese di spedizione, abbiamo pagato una gattata, ma come dici? Io lo so, là. Vabbè, ci sentiamo, che me ne passo in quel rettile, devo fare cosa. Vabbè, ciao. Lucrezia, ci sì. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Canale 10, cambio. Hola, hola, attenzione, canale 10. Eh beh, finito. Sì, fatto. Sì, avevo tutto pronto. Avevo tutto pronto, dovevo solo puntare, basta. Cioè, mi sono coricato, dopo pranzo ho pranzato, mi sono coricato, mi sono risvegliato, adesso ho la 10.320. Cos'è mangiato? Cosa riso? La pasta con gli asparagi. La pasta con gli asparagi delle patate al forno. Che è appena rispettati. Forse mi sono coricato troppo in fretta. Le patate contengono carboidrati, la pasta contiene carboidrati, già su due cose con i carboidrati, ha mangiato il burro rubano, gli arugrini. Sì, ma mi sono svegliato, ce l'avevo a 160. Come mi sono alzato, ho dato il picco, non ho capito il motivo. Io ce l'avevo a 132 stamattina, poi prima di pranzo ce l'avevo 126. No, io ce l'avevo tranquilla. Poi ho mangiato, vabbè, il riso con i frutti di mare, chissà se me l'ha fatta fare in picco. Non ho toccato secondo, ho mangiato un po' di fagioli con le cipolle e il tonno. Poi secondo non ne ho toccato perché c'era il pollo e cose, non ne ho toccato. Lì adesso stanotte non c'è. Stanotte non c'è, non se c'è, non appena l'insalata. Che strano, cioè mi sono svegliato vera tranquilla. Adesso mi ha dato il picco. Fate 5 cc di insulina. Mi ha giocato 12, 10 mi si fara. 12 sono un bel. Te la faccio fare la truffa. Vabbè. Perché succede? Secondo se metti troppo i carboidrati insieme ti succede. Quello lì, capito? È successo anche a me l'altro giorno, ho mangiato le frittelle per carnevale e mi ha fatto dare in picco. E adesso vediamo un po'. Ma è successo una cosa? Mai. Infatti mi sono messo qua, sono in camera. E non faccio neanche movimento. E magari capi, te la rimisuri dopo un po'. e vedi un po' se sta scendendo. Sì. L'altro giorno sono passato davanti a Cesaraccio, a Freddanita, e cazzo c'avevo, sai quando ti vedi che su di Moroni che c'è la glicemia bassa, e detto adesso mi fermo e mi prendo qualche cosa dolce, perché se mi sono prendere il panino all'uva, perché li fa un bel buono, sono morbidi morbidi, non so se a te ti piacciono, a me mi piacciono tanto, li mangiavo da quando era all'asilo, figurati, e mamma me li metteva nel cestino. Beh, questo panino all'uva lo prendo e davanti alla vetrina, cazzo, ho visto tanti di quei dolci, stavo impazzendo, qui ho visto le frittelle di Carnevale. Ascolti, me lo da un giro di frittelle, e faccio mangiare due bisuri e un panino con l'uvetta. Ma buono quel panino, è morbido morbido, se non le frittelle, col sapore dell'alice proprio si sente bene, morbide, calde calde. A quanto era dopo? Non te l'hai misurata perché hai avuto paura così? No, era 340. Aiuto! Vabbè. Però ho tolto la soddisfazione, mi ho fatto un po' di insulina. Ciao Luca, ti abbiamo chiamato 100 volte. Già, sono su TikTok, i diabali. Ma cazzo c'ho le basi dalla scena, non so dove stare. Non vai che ti chiamano su TikTok? Sì, in live, sì. E già l'hai visto un po' di volte, mi hai visto già. Già ti ho visto, già lo so, che ci sei, sì. Anche Luciano Cadetto. Ma lo conosce Luciano? Sì, lo conosco. Io Luciano lo conosco da ragazzino, capito? Andavamo a pescare insieme. Ha fatto servizio ambulanza con me, Luciano, per tanti anni. Ha lavorato anche per protezione civile, se non sbaglio. Servizio ambulanza, no, facevamo protezione civile. Sì. E poi c'ha il locale Mangiamo da Nonna. Sì, io lo so. Avanti, capito? Veglia io. Dati voi TikTok, io non so manco cosa è. Basta scrivere TikTok su Google e c'entri. No. TikTok si scarica da Play Store, capito? Se c'hai un Samsung, cioè se c'hai un Android. Altrimenti da, un iPhone. Come ricordo il browser per entrare a scaricare TikTok. Sì, ma cosa fai? Nulla, è tipo di busso di... sono in live adesso, cioè vedi le persone, vi capisci, ci parli. È tipo Facebook. È tipo Facebook che puoi fare le dirette, sì. Capito. Io adesso mi cancello anche Facebook, pensa se posso entrare su TikTok. Perché lo cancelli, capito? Ah, perché è una fesseria, ma perché sono stupidaggini, per carità, perché sono stupidaggini già. Era bello, fino a cioè, aver raggiunto mano, non aiuta, ti arrivano notifiche di casino al telefono. Vabbè, già ti diverti, conosci gente, diciamo che io mi sono trovato sempre bene, e poi quando devo passare il tempo me l'accendo, non so cosa fare, me l'accendo e controllo un po' di cose, giro, faccio, poi mi guardo sempre, te l'ho detto, e mi guardo sempre l'occulto scuro. Sì, per quello già è tutto un ciaramento, tutta una cosa, vedi cos'è, cioè, per carità. Allora io capito, la mia storia non metto mai nulla, ci metto fotografie di Tyson e di me non metto mai niente, perché non mi va di far sapere le cose mie agli altri, capito? Infatti me lo scrivo in Facebook, che c'è da tanto che non metti più la tua storia, eccetera, eccetera, ma a me non me ne fa nulla di far sapere le cose mie, se voglio metterle le metto, se no, ma metto solitamente roba con i cani, con i pappagalli, capito? Roba così, roba che non interessa molto alla gente. Infatti io qualche volta la metto la pistola, ma no, c'è gente che qualsiasi cosa fa. leggendo un sito della polizia, c'era scritto praticamente di non mettere mai quando vai in viaggio, quando esci da casa, perché ci sono sempre le persone che sono in agguato, sanno che la tua casa è libera, vanno e te l'aprono. Infatti. No, ma io non metto quasi niente, io magari qualche volta, qualche eccezione, quando sono qualche amico, quando è... Ma c'è gente che ogni due secondi pubblica, per cortesia. Sì, l'altro giorno su Facebook ti ho visto. Sì, qualche cosa la metto, ma sto pensando di cancellarmelo. Perché? Io non lo cancello, se poi lo voglio usare lo uso, se no non lo uso, poi vado anche su Star Maker a cantare e mi diverto anche lì. Sì. Oioia, drogaridati. Si dentro stampa stasera. Erano in tanti, di colpo se ne sono tutti andati. Tutti squagliati. Poi infatti ho detto, ma mi sa che è chiuso, se non c'è più nessuno, capito, non entra, invece poi c'è entrato tutto. Sì, no, ero fatto quella striscia di saldatura e basta. Cappa, e vabbè, interessante che ti abbia fatto il lavoro, dai, così sei tranquillo e puoi stare tranquillo. Cappa, Luca, non esci stasera. Ma su TikTok, Vabbè, diciamo che da una parte hanno rovinato, poi dall'altra diciamo che puoi socializzare di più in un modo diverso, prima per dire se dovevi conoscere ragazze e cose, dovevi andare in discoteca, eccetera, eccetera, oppure avvicinarle, cose. Adesso vai su Facebook e cose, e trovi le tipe che ti cercano loro. Sì.